Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di due giganti della cultura mondiale. Il primo è Shakespeare, il grande commediografo britannico, la cui vita è sempre rimasta circondata da un alone di mistero, da molte zone d'ombra, tanto da far dubitare a molti che Shakespeare sia veramente esistito o che Shakespeare sia davvero l'autore dei drammi che gli vengono attribuiti. E tornano su questa questione due autrici italiane, Roberta Romani e Irene Bellini, che sono autrici per la televisione e per il cinema. Il loro libro si intitola Il segreto di Shakespeare, pubblicato da Mondadori, 218 pagine, 9 euro. Il libro è scritto quasi come un giallo per sovvertire molte teorie e per documentare senza pedanteria una nuova tesi sulla paternità delle opere di Shakespeare, una paternità che punta dritto dritto all'Italia, come ci spiega adesso una delle autrici. Buongiorno a Roberta Romani. Buongiorno. Roberta Romani, come mai Shakespeare continua sempre a suscitare tante questioni, addirittura sul punto della sua stessa esistenza? Perché è una questione irrisolta. Comunque William Shakespeare è esistito sicuramente, ma non è stato lui a scrivere le opere. A scrivere le opere sono due italiani, Michelangelo e John Florio. Infatti il libro ruota intorno a questi due personaggi italiani. Ecco, ce li può presentare rapidamente? Sono due grandissimi studiosi, un padre e un figlio, che hanno dedicato la loro vita alla cultura, e la prima traccia, perlomeno quella che ho ritrovato io, sebbene già altri studiosi ne avessero individuati, parliamo di Borges, parliamo di Francis Yates, che è la più grande studiosa di quel periodo inglese, e quindi abbiamo rintracciato questi due, soprattutto prima il padre e poi dopo di conseguenza il figlio, sebbene poi il figlio sia più visibile del padre nella storia dell'Inghilterra. E quindi la prima domanda è stata: chi ha portato il Rinascimento italiano in Inghilterra se non un italiano? E abbiamo ricostruito la storia di questi due grandi personaggi che hanno vissuto, diciamo, il padre quasi completamente nell'ombra da un certo periodo della sua vita in poi, il figlio invece ha avuto una vita pubblica presso la corte prima di Elisabetta I, poi di Giacomo I, ed è questo il motivo per cui nessuno dei due poteva comparire ufficialmente come autore dei testi. E in questi testi voi sottolineate come ci sia infatti una prevalenza di temi di cultura italiana. Ma senza dubbio, diciamo che la cultura a cui loro, diciamo, attingono è una cultura rinascimentale che prende tutto, cioè prende dalla letteratura greca romana, risalendo perfino a Ermete Trismegisto, che è un autore mitico, diciamo, vissuto forse 3000 anni avanti Cristo, è tradotto addirittura da Marsilio Ficino, vissuto nel secolo precedente. Quindi chi poteva conoscere Marsilio Ficino, Machiavelli, chi Giordano Bruno se non i Florio? E Giordano Bruno compare nella vostra storia a un certo punto. Bruno compare perché Giordano Bruno, diciamo, vive 3 anni in Inghilterra e in quegli anni conosce e vive addirittura insieme un periodo a John Florio. In effetti tutti gli studiosi di Shakespeare riconoscono nell'opera shakespeariana la presenza del pensiero bruniano. E quindi, diciamo, tutto quello che noi diciamo, abbiamo fatto un'operazione che non ha fatto mai nessuno prima d'ora nella storia, cioè abbiamo fatto un'indagine storico-investigativa. Avete scoperto anche un circolo misterioso, la Scuola della Notte, che parte ha in questo? La Scuola della Notte è importantissima perché la Scuola della Notte, diciamo, sottolinea l'intelligenza e la trasversalità del mondo elisabettiano, dove tutti i personaggi di un certo valore nella disciplina di cui si occupavano, quindi scrittori e quindi grandi uomini di affari, nobili, siamo nel momento della scoperta delle Americhe, quindi anche esploratori, tutti grandi personaggi, esoteristi, tutti, quindi in questo, diciamo, circolo trasversale a tutte le discipline le persone si potevano confrontare e potevano elaborare, diciamo, la crescita di una nazione che da quel momento sarà la nazione che dominerà gran parte del mondo. Ecco, allora si può parlare di una invenzione del personaggio Shakespeare? Ma invenzione non è corretto, perché Shakespeare è una necessità, in quanto per molte ragioni che poi si sono dettagliate e spiegate tutte in maniera sintetica e molto semplice nel libro. Michelangelo Florio vive gli ultimi suoi 30 anni, 35 anni della sua vita in Inghilterra in incognito, mentre il figlio praticamente è un uomo pubblico, schoolmaster dei grandi rampolli della nobiltà inglese, perfino dei figli della regina Anna e di Giacomo I, e quindi non può figurare nel teatro. Serve una persona che possa figurare, anche perché le opere, non esiste il diritto d'autore, per cui le opere non sono proprietà dell'autore, ma sono proprietà di chi sovvenziona il teatro. E chi sovvenziona il teatro è la corona e la nobiltà e i grandi, diciamo, oggi diremo i grandi imprenditori, però diciamo i grandi uomini d'affari che cominciano a commerciare con tutte, diciamo, le materie prime che scoprono nelle Americhe. E quindi a questo punto serve la necessità di far potenziare la cultura, e la cultura si può potenziare in un mondo del 70% delle donne e il 90% degli uomini di analfabeti attraverso il teatro, che è la tradizione orale. Pensa che gli inglesi apprezzeranno questo vostro libro? Assolutamente no. Ma noi, diciamo, non rivendichiamo, diciamo, i grandi introiti che ancora, perché su tutto questo c'è il fatto che non esisteva il diritto d'autore. Il diritto d'autore la prima legge viene varata in Inghilterra nel 1710, quando tutte le opere sono già proprietà, e tutti gli scritti dei Florio che hanno lasciato ai Pembroke sono in proprietà dei Pembroke, perché i Pembroke sono tra i sovvenzionatori del teatro. E le opere già da allora rimanevano in possesso di chi aveva finanziato, quindi non erano dell'editore, non erano di chi scriveva, erano di chi finanziava. Quindi le opere sono state custodite dai Pembroke da sempre, e con la morte di John Florio e di Michelangelo Florio, John Florio lascia tutti i suoi scritti e tutta la sua grande biblioteca composta da 350 volumi, di cui più di 240 in italiano, e quindi praticamente loro sono in possesso di tutto, sono in possesso delle prove, diciamo delle prove dei testi di Shakespeare. È molto importante dirlo, non esiste una riga scritta, esistono solo poche firme. Grazie a Roberta Romani, autrice con Irene Bellini ed è Il segreto di Shakespeare. Buona domenica. Grazie, buona domenica. Il secondo libro è quello di Brunilde Ioannic e si intitola Io sono Shakespeare, pubblicato da Cavallo di Ferro, 172 pagine, 16 euro, tradotto da Marina Marino. Chi ha visto il film Anonymous di Roland Emmerich, dal quale avete ascoltato alcune battute, si ricorderà la trama, e quel film si ispira proprio al libro che adesso vi presento. Shakespeare non sarebbe mai esistito e l'autore dei suoi capolavori sarebbe un sulfureo personaggio, Edward Vere, 17° conte di Oxford, un uomo dissoluto e avventuroso, un protagonista dell'Inghilterra dei Tudor che, giunto quasi al termine della sua vita, in questo libro rivela la propria paternità delle opere del commediografo, che a un certo punto l'aristocratico incontrerà ricavandone un'impressione molto poco lusinghiera, come spiegano queste righe. Una sera Gascogne volle che andassimo a vedere un'opera rappresentata in una piccola sala vicino Leicester Square. I critici erano ben lungi dall'essere encomiastici, ma il mio amico conosceva bene l'autore e voleva quindi assistere alla rappresentazione. Il testo avrebbe potuto essere interessante se la recitazione degli attori non fosse stata così disastrosa. Le battute erano farfugliate, i gesti grotteschi e il tutto era un susseguirsi completamente assurdo. L'episodio sarebbe potuto finire lì, se non avessi scoperto alla fine di quella buffonata che l'attore principale si chiamava Shakespeare. Questa notizia mi colpì come uno schiaffo in pieno volto. Quell'uomo, di una grossolanità senza eguali, era nato con il nome del mio successo. Mi era, da quel momento, divenuto impossibile lasciare quel luogo senza parlargli. Chi era? Che sangue scorreva nelle sue vene? Ero di fronte all'incarnazione terrena delle rifrazioni del mio intelletto. Invitarlo a confidarsi fu cosa agevole, dato che il suo ego rendeva il suo eloquio sciolto. Nel dettaglio, appresi che era nato a Stratford-upon-Avon, da una famiglia che definiva lui stesso borghese. La sua educazione, tuttavia, era rimasta assai elementare. Nessun diploma di Cambridge, Oxford o una qualsiasi università gli erano stati conferiti, ma l'uomo sorvolava con sdegno sulle proprie lacune, precisando che la vita gli era stata ben più maestra che qualsivoglia libro. Vi ricordo che a Roma esiste il Globe Theater, costruito sul modello dei teatri dell'epoca shakespeariana. Il teatro è diretto da Gigi Proietti e in questi giorni sta presentando lo spettacolo di Shakespeare, naturalmente Riccardo III, dal 29 agosto all'8 settembre, con la regia di Marco Carniti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dicevamo due grandi personaggi, il secondo è Mozart, e siccome siamo ancora in clima di viaggio vi segnalo un libro su una delle mete più celebrate tra i viaggi di Mozart, ossia Praga, dove il compositore fu tra il 1787 e il 1791. È celebre, è un'opera letteraria che fu ispirata a quel viaggio, Mozart in viaggio verso Praga di Edward Murich, una novella del 1856. E adesso un musicologo per passione, architetto e designer per professione, Piero De Martini, torna su quei viaggi nel libro Mozart a Praga 1787-1791, pubblicato da Bruno Mondadori, 150 pagine, 19 euro. A differenza di Vienna, scrive De Martini, dove è difficile trovare le tracce di quel genio assoluto, solo una casa e una finta tomba, tracce sgretolate dal procedere di una storia complessa, a Praga sono numerose, per lo più intatti, i luoghi del passaggio del musicista, e altrettanto numerose le testimonianze che vi si riferiscono. Allora abbiamo qui un viaggio alla scoperta di Praga, accompagnato da Mozart, nel segno di una strana corrispondenza. Gaiezza e leggerezza, scrive infatti De Martini, schermano ironia e inquietudine, oscurità drammatiche o anche magiche o demoniache. Il libro ci presenta la Praga del Settecento e poi le opere più importanti che nacquero o esplosero a Praga, per esempio Le nozze di Figaro, che a Vienna avevano avuto un successo relativo e che invece a Praga ebbe un successo travolgente nel gennaio del 1787, o il Don Giovanni, che fu rappresentato per la prima volta a Praga nell'ottobre dello stesso 1787, che fu salutata anch'essa da un successo strepitoso. Meno successo ebbe La clemenza di Tito, perché la coppia imperiale non apprezzò. Ma il segno e il ricordo di Mozart rimasero fortissimi, come possono testimoniare queste righe di un musicista boemo, Johann Tomaszek, che è citato nel libro di De Martini e che rievoca l'impressione suscitata da un concerto al quale assistette lo stesso Mozart. Avvolti nei nostri mantelli, ci sedemmo in attesa dell'inizio. Comincia l'ouverture. La sua grandiosa concezione è la più veloce continuazione, con la ricca orchestrazione, insieme con la vita sublime di quella compatta opera d'arte, mi commossero a tal misura che me ne stavo lì seduto come in preda a un sogno, respirando a fatica, e nella mia gioia celeste vidi sorgere un sole, sentii come qualcosa di oscuramente presagito riscaldasse con una forza magica tutta la mia anima. Ogni momento cresceva il mio interesse verso tutto il dramma, e durante la scena dell'apparizione del fantasma del commendatore avevo i capelli ritti per la paura. Quella serata ebbe senza dubbio un'influenza decisiva sulla mia carriera musicale. Mozart è invece il protagonista dietro le quinte di un libro, che è una lunga novella di un autore franco-israeliano. L'autore infatti ha studiato in Francia, ha poi fatto carriera nei servizi di spionaggio militare israeliano, per diventare libraio antiquario, professione che esercita a Tel Aviv. Si chiama Raphael Jerusalmi e il libro si intitola Salvare Mozart. Questo è il suo primo libro, è pubblicato da Edizioni E.O., 118 pagine, 14 euro, tradotto da Gaia Panfili. Siamo a Salisburgo nel 1940, ormai la città di Mozart fa parte del Reich, e qui vive in un sanatorio il protagonista, Otto Steiner, musicologo appassionato. È malato di tubercolosi, le condizioni economiche non sono rose, spesso è costretto ad abbandonare la camera singola per sottoporsi alla noia della camerata. Unica consolazione è un grammofono, la musica e l'osservazione di quanto succede intorno, nel mondo appunto della musica, che si inchina a Hitler, offendendo ai suoi occhi la memoria stessa del più grande salisburghese, e cioè Mozart. E infatti, scrive l'autore nella nota finale del libro, Salisburgo fu il fulcro della vita culturale dei nazisti e il simbolo dello splendore del Reich. Nessun musicista né direttore d'orchestra citato nel diario di Otto, e ce ne sono tanti, si schierò mai in difesa della libertà di espressione o prestò il benché minimo aiuto ai colleghi perseguitati. Il libro infatti è scritto sotto forma di diario, Si citano molti musicisti e direttori d'orchestra dell'epoca e si spiega il complotto al quale avrebbe dato vita l'autore. Il suo è un antinazismo musicale, indignato per esempio dallo sfruttamento propagandistico che i nazisti vogliono fare del famoso festival di Salisburgo. E come atto estremo di resistenza, l'autore riuscirà a compiere una beffa musicale che così definirà nella lettera al figlio. Un gesto un po' stupido, uno scherzo da goliardi, che sarà stato il mio unico atto di resistenza. Non ho ucciso Hitler né salvato Mozart, eppure ho la sensazione di aver compiuto il mio dovere. Ho soltanto voluto impedire che una voce venisse zittita, un'unica voce tra migliaia di altre che però, se soffocata, avrebbe spento la musica dentro di me e ogni musica. Si parte da Mozart nel libro Sul pianoforte di Stuart Isakoff, un grande esperto americano di musica e di pianoforte, che si intitola Storia naturale del pianoforte, lo strumento, la musica e i musicisti, da Mozart al jazz e oltre, pubblicato da EDT, 338 pagine, 22 euro, tradotto da Marco Bertoli. Il pianoforte è più che uno strumento, l'autore ci ricorda infatti che una definizione secondo la quale il pianoforte sarebbe uno scrigno dei miracoli, ripieno di speranze, desideri e disinganni, non meno che di corde, di martelletti, di feltri. E George Bernard Shaw parlava dell'invenzione del pianoforte come ciò che per l'invenzione della stampa è stata per la poesia. Il pianoforte è una creazione italiana, fu infatti un fabbricante di strumenti di Padova, Bartolomeo Cristofori, che era stato soldato dal Granduca Ferdinando de' Medici a creare intorno al 1710 il primo pianoforte, o meglio, come lo chiamò Cristofori, un cimbalo di cipresso di piano e forte. La prima superstar del pianoforte fu naturalmente Mozart, che espresse per primo la straordinaria inventiva, la libertà, l'irriverenza con la quale si fa spesso o si dovrebbe fare sempre musica. E in questo, scrive l'autore, il pianoforte di Mozart non era molto diverso dal pianoforte di tanti locali di jazz. Anche la musica di Mozart, scrive infatti l'autore, risuonò spesso per la prima volta in sale da gioco, ristoranti e pensioni, dove le scommesse, il mangiare e pettegolezzi, a volte lo schiamazzo, le urla e le risse erano la norma. E il libro, illustrato e arricchito da vari testi che ne fanno anche un'antologia sul pianoforte, raggruppa in varie categorie i musicisti combustibili, gli alchimisti, i ritmizzatori, i melodisti, e poi passa in rassegna l'evoluzione della musica per pianoforte senza tralasciare i vari generi musicali. Si parla dei grandi autori, dei grandi interpreti che continuano a rendere questo strumento centrale nella storia della musica. Nel libro di Isakoff si parla molto di jazz, ma anche in forma insolita in un altro libro che adesso vi presento, quello di Frank Barrett, che è un docente americano di management, che si intitola Disordine armonico, Leadership e Jazz, è pubblicato da Egea, 200 pagine, 26 euro, ed è tradotto da Patrizia Polenghi. L'autore è un grande appassionato e cultore di jazz e ritiene che questo genere musicale rappresenti una ricca metafora per capire la natura delle attività all'interno delle organizzazioni. Il jazz è più di una metafora dell'organizzazione, scrive, anzi, i gruppi jazz sono di fatto organizzazioni progettate per l'innovazione. Gli elementi progettuali insiti nel jazz possono essere applicati ad altre organizzazioni che vogliano rinnovarsi. Perciò, nella prefazione del dialogo, un musicista, che è Paolo Fresu, e un docente della Bocconi, Severino Salvemini, dialogano e osservano il primo, il musicista, che la musica afroamericana è per sua natura una musica con una ferrea organizzazione collettiva, e il secondo, cioè Salvemini, che non ci sono protagonisti più forti e più deboli nel jazz, tutti giocano la medesima partita sulla base di un principio di fiducia e di sostegno reciproco fortissimo, si mescolano un'estrema coordinazione, saper prendere decisioni istantaneamente e intelligentemente, disposizione positiva, voglia di contribuire con il proprio ego senza però sovrastare la personalità altrui. Per questo, conclude l'autore, il jazz ci invita a rompere la routine, ad ampliare il vocabolario del sì per vincere il fascino del no, a trarre vantaggio dagli errori, a garantire che ogni tanto tutti abbiano l'opportunità di una solo a improvvisare. Insomma, le regole migliori per un'impresa vincente. Un altro docente che si misura spesso con la musica, di cui è più che un semplice appassionato, è Giovanni Iudica, di formazione giurista, che ha pubblicato adesso un bel libretto dedicato a una figura molto celebre e misteriosa nella musica italiana, cioè Carlo Gesualdo di Venosa, il principe tardo cinquecentesco di cui quest'anno ricorre il 400° della morte. Il principe fu una figura fosca e drammatica al centro di un caso che fece scalpore, era infatti stato accusato di aver ucciso la moglie e il di lei amante per ragioni d'onore, ma Gesualdo da Venosa fu soprattutto un grandissimo musicista, uno dei grandi innovatori nella storia della musica, e questa storia ci racconta appunto Judica con parole e con immagini per farci cogliere l'importanza di questo personaggio sulfureo ma straordinario. A Milano, tra l'altro, dall'8 al 25 novembre si svolgerà un festival dedicato proprio a questo centenario di Gesualdo, che si aprirà con una presentazione di questo libro, seguiranno concerti, dibattiti e al termine, l'ultimo giorno, un processo a Gesualdo da Venosa al Piccolo Teatro che si svolgerà il 30 novembre. Il libro si intitola Il caso Gesualdo, la vita felice, 102 pagine, 12 euro. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo iniziato questa puntata parlando di Shakespeare, che diventa uno degli artefici della crescita di Charity, la protagonista di un romanzo che si ispira alla vita della scrittrice Beatrix Potter. Si intitola appunto Miss Charity, è di Marie Aude Murray, è tradotto da Federica Angelini e pubblicato da Giunti, 478 pagine, 12,90 euro. Abbiamo qui una ragazzina della società vittoriana che si rifugia al terzo piano del proprio alloggio in compagnia esclusiva delle servitù e trascorrerà il tempo allevando topi e imparando a memoria Shakespeare per scoprire che la libertà sarà la sua vera compagna per tutta la vita. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Filippo Aureggi in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.